Cari ascoltatori di Fucico, oggi siamo al Duse con Walter Mramor, presidente del teatro, in occasione della conferenza di presentazione della nuova stagione di prosa. Innanzitutto, grazie presidente di accettare di fare due chiacchiere con voi. Grazie a voi, mi fa piacere essere qui. Ecco, una stagione di prosa che è appena stata presentata e che è in effetti molto nutrita di appuntamenti e anche di appuntamenti abbastanza diversi tra di loro. C'è spazio un po' per tutto, dal teatro classico alla comicità a spettacoli di teatro però nuovi. Il teatro è questo, no? Racconta la contemporaneità attraverso degli spettacoli di autori contemporanei, ma anche attraverso i grandi classici. Certo. Questa è il grande, diciamo, la grande bellezza del teatro. Infatti, per quanto riguarda il classico, ho visto che c'è Servo di Scena, abbiamo un Otello anche dall'11 al 13 novembre, abbiamo uno Zio Vania dal 3 al 5 febbraio, abbiamo Uno Nessuno e 100.000. Abbiamo anche un lavoro di cui ha firmato la regia l'inossidabile Pizzi. È nominato i grandi autori del teatro mondiale, perché andiamo da Pirandello a Shakespeare per arrivare a Tennessee Williams. Pizzi fa la regia Scene e Costumi di questo bellissimo testo che è La dolce ala della giovinezza, che vede come protagonista una diva del teatro e della televisione che è Elena Sofia Ricci. È uno spettacolo che ha debuttato lo scorso anno, ha già avuto grande successo in questa sua prima tournée e noi l'abbiamo fortemente voluto chiudere la nostra stagione di prosa. Ma come vedete, come vedi e come avete sentito, drammaturgie importanti anche contemporanee, penso alla presenza esclusiva di Carrozzeria Orfeo, che è una delle compagnie emergenti più importanti sul territorio nazionale, che non era mai stata a Bologna. Penso, diciamo, al nuovo lavoro che mette in scena Children, The Children, che mette in scena Elisabetta Pozzi, un'attrice amatissima. Penso a Lodo Guenzi, che è un divo cittadino, ma è soprattutto un grande artista. Noi lo conosciamo soprattutto per le sue esibizioni musicali, ma in realtà lui ha una forte formazione teatrale. Ha fatto l'Accademia Nico Pepe a Udine e adesso ritorna a teatro con un grande classico che è Un giallo di Agatha Christie, che è Trappola per topi. E così avanti, c'è una regia di Ferzan Ospetek, Mine vaganti per il teatro, nel senso la trasposizione teatrale del grande film di Ospetek, e lui firma la stessa regia e lo firma lui stesso. C'è Vanessa Incontrada, con cui festeggeremo il Capodanno, è protagonista di questa commedia di Pignotta che si chiama Scusa sono Rignone, ti posso richiamare, che è una commedia importante. Pignotta è un autore davvero prestigioso, capace, sa tessere i fili della comicità molto bene e racconta della smania dei tempi moderni, odierni, di visibilità, fino al paradosso. Ecco, questa è una commedia anche molto graffiante. E via via via, abbiamo nominato lo Zio Vania, Uno Nessuno e 100.000, abbiamo nominato... Ecco, nominiamo anche questo, il bellissimo spettacolo nuovo di Lella Costa, che si chiama Le nostre anime di notte, e che porta la regia di Serena Sinigali. Sì, che è tratto da un romanzo. Che è tratto da un romanzo, uno spettacolo nuovo che ancora non abbiamo visto, ma Lella qui al Teatro Dusa è di casa e fa sempre dei grandi numeri, è molto amata, quindi abbiamo voluto assolutamente averla. Poi non è nel programma, ma l'abbiamo detto, il ritorno di Slava Snow Show a marzo, sì. Il grande clown che ha questo spettacolo, che ormai è un evento internazionale e che sarà ospite per una settimana qui al Duse, una delle poche città italiane che si è potuta accaparrare il grande progetto di Slava. Poi concerti, ci sono tanti fuori abbonamento che insomma possono essere... Concerti, abbiamo Daniele Silvestri il 23 novembre, poi il 1 dicembre Angelo Branduardi con Il Cammino dell'Anima, Simona Molinari il 14 dicembre con Petali in Tour e il 13 ottobre Rafael Gualazzi. Poi abbiamo già nominato appunto anche dei fuori abbonamento, perché abbiamo Alessandro Baricco che legge 900. Questo è uno spettacolo che dobbiamo recuperare e che non abbiamo potuto fare perché Baricco non è stato bene, adesso lui è in ripresa. E l'abbiamo programmato a dicembre. Poi arrivano di nuovo gli Oblivion, lo show di Maurizio Battista, il nuovissimo show di Maurizio Battista, che abbiamo avuto da non molto, che ha avuto un successo clamoroso. E poi abbiamo Elio Germano che ci viene a parlare di Dante e del Paradiso di Dante a suo modo, quindi molto comunicativo, molto accattivante. Grazie direttore, le chiederei due parole anche sull'attività di Fantateatro. Beh, Fantateatro è una struttura bolognese a cui siamo molto affezionati e che ci lega veramente una sinergia, siamo in sinergia, in contatto da ormai 10 anni, stiamo crescendo insieme. Con Fantateatro noi collaboriamo in diverse rassegne, due molto importanti estive che si svolgono una a luglio e una a settembre, e le recite che sono programmate sono moltissime, credo oltre 50, che godono generalmente di un grandissimo successo, tanto che sono sempre esaurite. E quindi continueremo a lavorare con Fantateatro, come continueremo a lavorare con quella bellissima struttura che è l'Orchestra Senza Spine. Vedo dei titoli veramente della tradizione. Sì, sono dei titoli classici, abbiamo voluto fare questo percorso classico, proprio per far conoscere, ovviamente con le parole semplici che utilizzano gli attori di Fantateatro, i classici, quindi Ulisse, Icaro, Eros e Psiche, insomma. Diciamo Certo, che poi vediamo è un Pierino il lavoro. Lupo, il Lago dei Cigni, è una Quella è la bellissima parte iniziativa. danza. Sì, è una bella iniziativa perché permette ai bambini di divertirsi, innanzitutto di entrare a teatro, di scoprire che cos'è il teatro, di rendersi conto che al teatro si sta bene, che al teatro si può anche divertirsi, ci si può divertire, si può ridere, si può scherzare, si può liberare la fantasia. E quegli spettacoli servono a questo. Poi, se si affascineranno a questo mondo, noi speriamo che quando diventano più grandicelli verranno a vedere altre cose e via Certo. via lì. È una sorta di teatro semplificato affinché non ci sia questo grande ostacolo. Sì, è un lavoro formativo, diciamo, è Bellissimo, sì. un progetto formativo che non poteva non, diciamo, essere parallelo a quella che è la grande attività di ospitalità che ha il Teatro Duse. Il Teatro Duse è importante anche perché è un presidio formativo, è un luogo dove ci si forma. Noi lavoriamo per preparare i giovani, come lavoriamo per preparare e aiutare i ragazzi, quelli delle scuole superiori, facendo invece un altro progetto che si chiama Duse in Classe, dove un gruppo di attori va in classe e prepara i giovani e i ragazzi alla visione dello spettacolo che verranno poi a vedere a teatro. Quindi diciamo che l'aspetto formativo e di crescita che ha il teatro in sé per noi è molto importante. Vogliamo dire qualcosa anche sulle formule di abbonamento? Posso dire che da oggi, che è l'8 di giugno, parte la campagna abbonamenti. È dedicata in primi 10 giorni agli abbonati e anche agli abbonati della 19-20 che non avevano potuto invece continuare a causa della pandemia. Le formule sono quelle usuali: l'abbonamento totale ai 16 spettacoli oppure l'abbonamento rosso-blu ad 8 spettacoli. Benissimo, la ringraziamo molto della sua disponibilità. Grazie a lei e grazie a tutti i radioascoltatori. Esattamente. Grazie, Buongiorno, direttore. arrivederci.